via da questa città, scappa con me mercoledì. Via da questa città, scappa con me mercoledì. Non voglio andare al mare, voglio andarci sì, in un giorno feriale sulla spiaggia a navigare. Sole dentro a me, voglio andare al mare a non far niente, no, no, no, no, sdraiato sullo sdraio con gli occhi chiusi un po'. Via da questa città, scappa con me, perché al mare mi ribello e poi abbronzato son più spiaggia mi ribello, ma dentro sono più tranquillo, perché al mare è un altro tempo, perché al mare è un po' più lento, perché al mare son più bello, almeno per un po'. Via da questa città, scappa con me mercoledì, per stare in un giorno feriale, con gli occhi persi sì, e dentro al blu, e mangiare un fritto misto, e farti ridere un po' di più. Voglio ascoltare il mare, e i miei pensieri no, non ascoltarli più. Voglio sentire il sole, è quello che dici tu. Via da questa città, scappa con me mercoledì, perché al mare mi ribello e poi abbronzato son più bello, perché al mare mi ribello ma dentro sono più tranquillo, perché al mare scappa con me, via da questa città, scappa con me.